Allora, vi saluto tutti, grazie di essere intervenuti. Questa serata la dedichiamo a un autore che fa parte ed è stato anche un promotore della neonata associazione scrittori di Bolzano. Ecco, con noi appunto questa sera l'avvocato Alberto Pasquali, che presenta il suo nuovo libro L'amante della contessa. E potete già immaginare di chi stiamo parlando, visto il ritratto che campeggia qua dietro alle mie spalle. È un libro intrigante, non è la prima pubblicazione di Alberto Pasquali, perché già l'anno scorso ci eravamo trovati qui per un suo libro su Castelroncolo, che aveva avuto un buon successo e anche in biblioteca viene preso in prestito, e questa sera torniamo sempre però con un racconto, con un romanzo di ambientazione storica che riguarda il nostro territorio, e quindi siamo anche contenti di avere così qualcuno che ci racconti un passato un po' più lontano rispetto ad altre promozioni che facciamo. Quindi ci stiamo spostando cronologicamente nell'arco della nostra storia locale. Abbiamo con noi il presidente dell'associazione, Vito Mastrolia, che questa sera accompagnerà l'autore nella presentazione di questo nuovo libro. Come al solito approfitto di queste iniziative per fare un po' di pubblicità anche alle prossime che la biblioteca organizza. Infatti giovedì prossimo, sempre alla stessa ora alle 18, ci troveremo qui per presentare il libro Il viaggio in Italia con Goethe. Sarà presente l'autore Davide Polimeni. Poi ci troveremo anche il lunedì 20, sempre qui alle 18, con un libro che noi inseriamo nella nostra cornice di memorialistica, So che tornerai, una grande storia di dolore e di amore della mia famiglia. L'autore è Pierpaolo Dalla Vecchia. Saranno con noi Lidia Menapace, Lorenzo Merlini per le letture ed Emanuele Zottino per l'accompagnamento musicale. Infine, giovedì 27 febbraio, ecco, come vedete facciamo due appuntamenti settimanali, lunedì e giovedì, sarà la volta del nuovo romanzo Di un solo con Mario Moletti, accompagnato da Giuseppe De Cesare, che è giornalista della RAI, e da Paola Vaccarelli, che si occuperà delle letture. Un ultimo appello: se conoscete qualcuno che è nell'età fra i 18 e i 39 anni, visto che stiamo promuovendo gli scrittori, c'è un premio che la RAI organizza ogni anno, si chiama il premio La Giara. La biblioteca è una partner di questa iniziativa della RAI, quindi entro il 31 marzo andrebbero presentati i manoscritti da te lo scritti. Se conoscete qualcuno che ha questa inclinazione, il piacere di scrivere e magari non ha il coraggio di proporsi, non ha stampato, non ha pubblicato nulla, sappiate che la RAI, anche la sede di Bolzano, raccoglie entro il 31 marzo i manoscritti, e poi verranno valutati da una giuria. Qui lascio i fogli per le informazioni ulteriori, ma comunque anche sul nostro sito c'è un richiamo a questa iniziativa. Vi ringrazio, vi lascio la parola e grazie ancora anche per la collaborazione con la biblioteca. Bene, buonasera e grazie a tutti per essere qui con noi. Ringrazio naturalmente la dottoressa, la direttrice della Biblioteca Grande Augusto, per l'ospitalità che ci concede puntualmente ogni volta che lo riceviamo. Anzi, devo sottolineare il fatto che con la Biblioteca Grande Augusto noi abbiamo una collaborazione ormai instaurata da tempo e speriamo che possa continuare e che sia certamente sempre più fruttuosa. D'altronde, se ci sono sinergie in questo campo è sempre meglio piuttosto che disperdere le energie e le risorse. Bene. E dunque, quel quadro che vedete alle mie spalle sembrerebbe, cioè dovrebbe essere Margarete Maultasch, ma non lo è. Non lo è perché quello è un quadro, poi lo dirà meglio Alberto, è un quadro commissionato dalla Chiesa del Tempo a un pittore olandese con l'incarico di farla il più brutto possibile, rappresentarla nel modo peggiore possibile. Ora, perché? Adesso sto già scendendo nei particolari in qualche modo del libro, no? Faccio un'anticipazione. Maultasch, come voi sapete, in tedesco significa bocca larga o bocca grande o tasca grande, cose del genere, ma significa anche qualche cos'altro di peggio, cioè anche una parola volgare, si riferisce a una donna di malaffare, una donna di costumi facili e cose di questo genere. E questa immagine a suo tempo, qui siamo nel 300, circa metà del 300, il Medioevo, è stata volutamente messa in giro dagli apparati ecclesiastici del tempo, perché questa signora, questa contessa, nonché marchesa della Carinzia e di Gorizia, aveva osato niente di meno che ripudiare il marito, metterlo fuori dalla porta del castello, in un tempo in cui queste cose magari le facevano i mariti e non certamente le mogli. E andando a simil nozze successivamente con un altro nobile, senza il consenso della Chiesa. Quindi questa cosa qui fu talmente scandalosa per il tempo e per i tempi dal punto di vista ecclesiastico che ci si impegnò a rappresentare questa donna, che in realtà era molto intelligente, colta, preparata, eccetera, come una donna, diciamo, riprovevole, tra virgolette. Ma lasciamo stare questa cosa. Dunque, Alberto Pasquali, tutti lo conoscete come avvocato, il foro bolzanino e non solo bolzanino, ma come scrittore di romanzi storici forse un po' meno. Questa è la seconda volta che lui scende in campo, no? Come qualcuno soleva dire tempo fa, per presentare un nuovo romanzo storico. È un romanzo, certo, come tale è fantasia, però c'è uno sfondo storico forte, chiaro, preciso, ci sono riferimenti a fatti storici, avvenimenti del 300 medievale del Tirolo, e non solo del Tirolo, ma soprattutto c'è, secondo me, l'obiettivo non dichiarato, ma è evidente comunque, di voler far riflettere un po' tutti noi, quelli almeno che non hanno una conoscenza approfondita, chiara, su fatti e avvenimenti del passato del Tirolo, terra in cui noi viviamo da tempo, io credo, io sono qui da 51 anni, tanto per precisare, e molte di noi molte cose non le sanno, e quindi su quello che è successo in questo territorio, sulla civiltà, sulla cultura, sugli avvenimenti storici, sui fatti politici, diplomatici, fatti anche personali di duchi, contesse, eccetera. Quindi questo obiettivo, che secondo me non è dichiarato, però c'è comunque, di far tutti quanti noi interessare a questi fatti e questi avvenimenti, e quindi magari fare ulteriori riflessioni, approfondimenti su questi temi. Bene. Il titolo del romanzo, L'amante della contessa, è certamente è intrigante, potrebbe lasciare intendere che si voglia raccontare chissà quali storie amorose tra questa contessa e personaggi maschili del tempo. In realtà sì, c'è qualche fatto di questo tipo, però non è che siano, come dire, propriamente documentati tanto da essere fatti storici. In ogni modo, non è una novella, diciamo, romantica ambientata nel Medioevo, è invece una storia vera, reale, di una grande donna, una donna preparata, intelligente, una donna che è riuscita ad emergere in un contesto storico, il 300 medievale tirolese, non solo tirolese, difficilissimo, tra, come dire, tra lupi affamati di possessi territoriali, di eventi diplomatico e anche militari, un ambiente non facile. Questa donna è riuscita a imporsi nel suo tempo con grande destrezza politico-diplomatica, e gestire territorio vasto, il Tirolo del nord, del sud, poi la Carinzia, nonché la contea di Gorizia, per molti anni. Ma va ricordata anche perché è una figura di donna molto moderna, cioè essere riuscita a fare quello che ha fatto con grande destrezza, dicevo, in un ambiente molto difficile dal punto di vista storico, nel periodo di cui stiamo parlando, siamo a metà del 300, non solo, ma essere riuscita a imporsi a personaggi che potevano essere, come dire, più forti di lei sotto vari punti di vista. In realtà è stato un grande merito suo. Riuscire inoltre, ho già accennato prima, non voglio ripetermi, a buttare fuori dalla porta di casa il marito, ripudiarlo così con tanta, diciamo, forza e senza nessun problema né personale né politico, beh, insomma, è indice di grande, diciamo così, di grande modernità. Non sarebbe stato possibile allora fare una cosa del genere. Averlo fatto sta a significare che questa donna non aveva poi tanti scrupoli nel gestire le cose personali e pubbliche. Il romanzo è breve, però molto bello, scorrevole, una prosa chiara, limpida, direi accattivante. Se uno incomincia a leggerlo non vede l'ora di finirlo, quasi che fosse una specie di libro giallo, no? Come quei libri che si leggono, che si cominciano a leggere dalla prima pagina e poi non si vede l'ora di terminare, magari in una serata, in due serate si riesce a farlo. Bene, io non voglio dilungarmi in altro perché finisco per togliere la parola all'autore. Aggiungo solo che l'editore è Curcu Genovese, è un editore che cura da tempo molte opere, non solo romanzi storici, di nostri soci e autori della nostra associazione. Ne cito solo un paio: Caramaschi, per esempio, con i suoi numerosi romanzi storici, ambientati quasi tutti nella Valle Aurina, come sapete, nonché Frangipane, e mi pare anche il professor Dobrilla è uno che scrive e pubblica con Curcu Genovese. E anche Marina Manganà. Non solo, ecco, mi si ricorda che anche la nostra socia, e anche Franca Caro, autrice qui presente di Mamma ce n'è una sola, grazie a Ciro, che sarà presentata in questa sede il 2 di marzo, anche lei pubblica con Curcu Genovese. Quindi Curcu Genovese, tra l'altro, è un nostro sponsor, quindi è giusto citarlo come tale. Grazie per l'attenzione, passo la parola a Alberto. Grazie, grazie. Allora, gentili signore, cari amici, devo rispondere a un po' di domande che forse dentro di voi vi farete. Allora, io non è che sia particolarmente noto, comunque chi mi conosce come avvocato, come legale, perché anche per la mia tarda età, sono 53 anni che sono iscritto all'albo degli avvocati, quindi è passato qualche anno dall'inizio della professione. Da alcuni anni ho riscoperto la gioia di scrivere e di scrivere di storia. La storia è sempre stata da me prediletta come materia fino dai tempi dell'infanzia, e particolarmente mi piaceva la storia medievale, e non so neanche spiegarvi il perché. Forse perché la storia medievale è una storia ancora non completamente nota come la storia romana, per esempio. La storia romana è, stranamente, che è più antica, è più studiata e più anche nelle sfaccettature rispetto alla storia medievale. Forse perché è legata ai castelli, è legata ai misteri, alle leggende, a Robin Hood, agli arcieri, ai segreti delle cantine, alle mura merlate, ai fantasmi. Ecco, quindi la fantasia anche di un bambino, e questo è stato nel caso mio, correva dietro a queste idee, ecco, a questi segreti, a questi misteri che nasconde la storia medievale. Mi è venuta la voglia di scrivere e ho scritto un primo libro storico, per me ho scritto degli altri libri, ma storicamente ho scritto questo, è il mio secondo romanzo, Il primo è stato il mio castello Manschluss, che è ambientato al Trostburg, cioè al castello di Ponte Gardena, e attorno alla figura di Oswald von Wolkenstein, che è stata una figura storica molto importante per l'Alto Adige. Questo romanzo invece riguarda la figura di Margarete Maultasch, che non tutti conoscono. La Margarete Maultasch è stata un personaggio storico molto importante per l'Alto Adige, perché è stata l'ultima contessa del Tirolo prima di essere stata costretta con la cessione coatta a cedere la contea agli Asburgo nel 1363. Ma la Margaret Maultasch aveva un territorio immenso, per cui faceva gola a tutte le famiglie aristocratiche dell'Europa. Pensate che aveva il territorio che va da Kufstein ad Ala, cioè il Nord Tirolo e il Sud Tirolo, chiamiamo, e il Trentino, nonché la contea di Gorizia e il marchesato di Carinzia. Quindi pensate, sostanzialmente una mezza Europa centrale era in mano a Margaret Maultasch, per cui evidentemente era corteggiata da tutte le famiglie asburgi, famiglie nobiliari europee, di Asburgo in testa, per catturare questo territorio immenso. E la sua figura storica è stata molto molto contestata, ha avuto nella Chiesa e nel Papato i suoi irriducibili avversari, perché è stata la prima donna libera, una donna che ha avuto il coraggio di ripudiare il marito e l'ha messo fuori dalla porta del Castel Tirolo nel 1341, dopodiché, senza aspettare il consenso del Papa, che era fondamentale, era obbligatorio, si è risposata la seconda volta con un Wittelsbach, che era il figlio dell'imperatore. Quindi tutta la vita di Margaret si è svolta nel contesto della più importante vita mondiale di allora, perché ovviamente il mondo allora era circoscritto all'Europa. Il protagonista non è solo Margaret Maultasch, ma è il Castel Tirolo. E io mi sono messo in testa, un po' è un obiettivo forse ambizioso, quello di far conoscere agli altoatesini la storia dell'Alto Adige in maniera indiretta, attraverso dei romanzi brevi in cui viene rispettata al 100% la storia, cioè i fatti storici sono quelli. Ma la mia fantasia ha creato delle situazioni diverse per quello che riguarda anche, per esempio, l'aspetto fisico di Margaret. Voi avete visto quell'orribile immagine che c'era prima sullo schermo. Quella, ecco, se la vogliamo far vedere, ecco che. Questa pittura famosa, di un famoso pittore olandese, come diceva il professor Vito Mastolia, è stata commissionata dalla Chiesa per attribuirla a Margaret Maultasch, perché Margaret doveva apparire una donna orrenda, che non fosse lei è pacifico, perché l'unico documento storico che abbiamo è la moneta, in cui Margaret appare una donna del tutto normale, che quella è carina addirittura. era anche carina. Anche carina, ma c'è, soprattutto c'è un riferimento negli annali dell'epoca dove si parla di pulcra puella, quindi bella ragazza. Qualche malizioso ha attribuito questo epiteto di Margaret Maultas, che vuol dire muso di tasca, qualcosa del genere. È un epiteto che viene riservato anche nel vecchio linguaggio medievale a una prostituta. C'è di più, qualcuno che un mio amico storico dice che era una precorrettrice della Levinsky e che era specializzata in sesso orale, e quindi che il tempo passa, ma le abitudini rimangono quelle. Questo per dirvi su questo personaggio, che io l'ho definita donna bellissima. L'ho trasformata, ho parlato di un personaggio ovviamente immaginato, che è un giovane che si innamora perdutamente di lei e che vive la sua vita sempre seguendo tutte le sue manovre politiche, praticamente fino alla morte, che è avvenuta nel 1369, ai 51 anni. Aspetti che vedo, non so come funziona il ritornare indietro, che si vede la tomba dei minoriti a Vienna. No, questa è la, ecco, questa qui è la tomba di Marguerite nella chiesa dei minoriti a Vienna. Questa è la vicenda che io immaginate che passa dalla successione avvenuta in tempo brevissimo, in tempo molto all'improvviso, ed era giovanissima, ha dovuto succedere al padre, che era morto prematuramente, e si è trovata a dover governare questo enorme territorio, veramente, che era metà dell'Europa centrale. Ha dovuto appoggiarsi via via alle grandi famiglie aristocratiche che dominavano l'Europa. Non c'erano ancora gli stati, dominavano le famiglie: la famiglia dei Lussemburgo, la famiglia dei Wittelsbach, la famiglia degli Asburgo. Queste erano le tre famiglie che tutte cercavano di arrivare alla contea. Lei preferì un Lussemburgo, Giovanni Enrico, con cui si è sposata, e che però con il quale non funzionavano le cose, non si sa bene, questo ragazzo era più giovane di lei, ma pare addirittura che non venisse neppure consumato il matrimonio, si dice. Comunque lei lo ripudiò, lo mise fuori dalla porta del castello. Questo cercò di rientrare, non vi riuscì, ovviamente, perché tutti gli aristocratici della zona erano concordi con Margaret nel volere fuori lo straniero. E il fratello però di Giovanni Enrico, che fu Carlo IV re di Boemia e poi imperatore, giurò eterna vendetta, e poi vedrete, ci fu la guerra, anche la guerra del 1348, la guerra causata dall'esercito di Carlo IV, che invase il Tirolo. Ma le vicende sono state tante, ricordiamo, e anche questi sono due fatti assolutamente storici. Nel 1348 ci furono due grandi tragedie. Una è la peste. Guardate che nel 1348 la peste raggiunse un acme maggiore nella storia e un terzo della popolazione europea morì. Quindi pensate che catombe, ecco, dappertutto, in Germania, Italia, Francia, dappertutto. L'altro è anche un argomento importante, è il terremoto. Ed è l'ultimo terremoto di cui si parla in Alto Adige, avvenuto nel 1348, anche questo è un fatto storico, che ne farebbe pensare a un terreno sismico, ma pare che non sia, per quello che sono le ultime notizie. Ecco, io più che altro sono pronto a rispondere alle vostre domande. Devo dire una cosa, che adesso la nostra grande socia Marina Manganaro ci leggerà due tratti due capitoli di questo libro, come ha detto, edito da Curco Genovese. E, insomma, naturalmente la mia ambizione è di continuare su questa strada, man mano far conoscere attraverso la storia dei castelli dell'Alto Adige. A proposito dei castelli dell'Alto Adige, guardate che forse non ci rendiamo conto, abbiamo una ricchezza storica e enorme in Alto Adige, perché abbiamo fra i più bei castelli che ci sono in Europa. Io sono un amante dei castelli e sono andato anche visitati in Francia, in Italia, ci sono delle zone bellissime dei castelli, però la ricchezza che hanno i castelli dell'Alto Adige, ne abbiamo 400, alcuni bellissimi, e vi invito a vederli se non li avete visti. Uno è il nostro Castel Roncolo, che devo dire è un bellissimo castello tenuto molto bene. Poi abbiamo anche Castel Mareccio da noi, ma abbiamo il più bel castello, secondo il mio parere, il più bel castello dell'Alto Adige, è il castel di Sandin-Taufers, il castello di Tubre, è bellissimo. Tra l'altro sono stati girati due film, uno con Alberto Sordi e uno con Virna Lisi, è tenuto molto bene. Un altro è Castel Tirolo, che è il protagonista di questo romanzo, e Castel Coira anche, o Castel Cur, che è bellissimo. Ma mi piacerebbe, è forse un'ambizione alla quale non riuscirò a soddisfare, ma sarebbe di pian pianino prendere in esame i vari castelli romanzi, della 400 romanzi, sì, devo bisogna lavorare, vero? Ma vedi, il problema è anche che bisogna studiare, perché quando si scrivono dei romanzi di questo genere, io innanzitutto voglio che la storia sia assolutamente rispettata. Quindi non bisogna scrivere sciocchezze e dire, magari, sai, di andare con la fantasia anche stravolgere l'avvenimento storico. Si può stravolgere con la fantasia, come per quello che riguarda, ecco, la figura di Dominic, che è questo giovane stalliere, ecco, che, di cui leggerete, ecco, però io il primo dettato è rispettare la storia, ecco, rispettare la storia, perché è questo poi lo scopo che mi propongo di fronte ai lettori, di fronte agli altoatesini, sia di lingua italiana sia di lingua tedesca, perché ho scoperto che i cittadini di lingua italiana non sanno niente della storia dell'Alto Adige. Molti l'hanno sempre reputata storia tedesca. Allora, cosa c'entra? E la storia della nostra provincia non è storia né italiana né tedesca, è la storia dell'Europa. E Ma anche ho visto che anche i cittadini di lingua tedesca ne sanno un po' di più, sicuramente sanno chi è Margaret Maltas, o conoscono Mainardo II, ma ci sono dei personaggi importantissimi nella storia dell'Altoace, a parte Oswald von Wolkenstein, abbiamo Niccolò Cusano, abbiamo Claudia de Medici, ecco, dei personaggi importantissimi che sono stati protagonisti del loro tempo e quindi mi auguro di poter scrivere anche su di loro, se domenica Dio mi dà qualche anno di vita ancora. Grazie. Questo libro ha due prefazioni di due autori molto importanti. Uno è il sindaco dottor Renzo Caramaschi, che ha fatto una sua prefazione, e l'altra è del dottor Luis Durnwalder, emerito presidente della provincia di Bolzano. Sono due prefazioni che tra l'altro sottolineano molto bene quanto sia importante conoscere la storia dei luoghi dove tutti noi viviamo, se non altro per vivere meglio il presente, cioè, come dire, non si può vivere il presente senza conoscere il passato, no? E un passato locale che, come ha già detto Alberto, è ricchissimo di situazioni, di siti culturali. I castelli dell'Alto Adige sono quasi tutti molto belli, affrescati, hanno tante cose molto belle da vedere. E, d'altronde, a proposito del Medioevo, dico solo una brevissima cosa per non toglierti spazio. Tu ci accennavi prima al fatto che il Medioevo non si conosce bene, non si sa molto, ma c'è una responsabilità, come dire, culturale, ideologica quasi, che ha fatto sì che sul Medioevo si mettesse un panno nero, sì, che offuschi, diciamo così, le situazioni culturali, civili che pur c'erano. La responsabilità è del razionalismo illuminista, come forse molti di voi sanno. Questa dea della ragione, che era la divinità massima a cui questi filosofi, Diderot, Rousseau e altri, lo stesso Cartesio, si rifacevano, ha fatto sì che i momenti storici un po' meno razionali, un po' più, come dire, sentimentali, un po' più istintivi, che sono abbastanza tipici della storia medievale, questi momenti siano stati lasciati così da parte. Ora, gli studi successivi hanno messo in luce che in fondo il Medioevo non è stato un periodo totalmente buio, fatto di momenti di oscurità, di inciviltà e cose di questo tipo. Come accennavo prima, basta andare a vedere i castelli, quasi tutti medievali, sono ricchissimi di reperti storici, archeologici, di affreschi, di pitture, eccetera. Sono tantissime situazioni, ma non solo in Italia. Se uno va a vedere i castelli della Loira in Francia, rimane incantato, eppure anche quelli sono di epoca medievale, quindi senza rimanere nel ristretto luogo altoatesino. Scusate, volevo solo. Ecco, a questo punto chiederei a Marina se gentilmente ci legge due capitoli, ecco, per non tediare, immagino che avrai bisogno. Vuole stare in piedi dopo una sedia? Wow. In piedi? Sì, per carità, non stiamo a spostare le sedie per arrivare alla pena. Allora, questo è proprio il primo capitolo. Giovinezza tormentata. Correva l'anno di grazia 1340. Mi ero svegliato improvvisamente dal profondo sonno notturno. Mi ero rivestito alla meglio ed ero uscito dalla mia piccola cella per affrontare la fresca temperatura dell'alba. Mi ero seduto sul muro d'ingresso del castello, ricoperto d'edera, ad ammirare lo splendido momento dell'aurora. Verso oriente il sole nascente tentava disperatamente di emergere dalle vette dolomitiche ancora coperte dall'oscurità notturna e illuminava una parte della valle Atesina. Man mano che il sole si alzava, la luce raggiungeva una parte della valle e presto sarebbe giunta a Merano, ancora nel semibuio dell'alba. La bellezza della natura mi distoglieva da pensieri tenebrosi. Avevo 19 anni, ma soffrivo la delusione e le frustrazioni di aver sbagliato tutto nella mia giovane vita. Mio padre, balivo della contea di Tirolo, mi aveva battezzato Dominique e intendeva avviarmi alla carriera sacerdotale. Era viva in lui l'ambizione di avere nella famiglia un sacerdote e chissà, domani un vescovo. Purtroppo mia madre era morta alcuni anni prima e ricordavo poco o nulla della sua figura, della sua personalità. Mi avevano riferito che mi amava profondamente, che avrebbe sacrificato tutto per me. Mio padre mi impose di studiare presso il convento benedettino, dove mi condusse, dov'è il voltapagine? Come per gli spartiti musicali, scusa. Allora, ancora bambino, cos'era l'ultima parola, la ricordate, torno dietro. Ero molto timido e soffrivo di nostalgia, per cui fui affidato alla protezione del priore, Father Alexander, coltissimo, saggio e umano. Mi insegnò non solo il latino e la retorica, ma anche il modo di vivere e di comportarsi secondo l'insegnamento del Vangelo. Aveva studiato teologia e si era convinto che il dovere di un buon cristiano fosse seguire gli insegnamenti di Gesù Cristo, distinguendo la sostanza della cristianità dalle formalità della burocrazia ecclesiastica. Mi aveva infuso i sentimenti di carità, di solidarietà umana, di pace, di tolleranza. Io pendevo dalle sue labbra, poiché avevo capito che mi trovavo di fronte a un uomo eccezionale, avulso da vizi, desideri, rancori. Avevo ormai 17 anni quando mi accorsi che Father Alexander iniziava sempre più a tossire. Le sue condizioni di salute peggioravano, finché un giorno mi mandò a chiamare. Mi ricevette nella sua umile cella e con un fil di voce mi disse: Dominique, nostro Signore mi ha chiamato a sé e spero che la mia anima raggiunga il paradiso. Mi auguro che la mia vita non sia stata inutile e di averti insegnato qualcosa di buono. Ricordati, segui sempre gli insegnamenti del Vangelo. Gli baciai le mani con le lacrime agli occhi mentre entrava il prevosto per elargirgli la sua unzione. Lo vidi morire con uno sguardo sereno e con un cenno di sorriso sulle labbra esangui. Era morto un giusto. Dopo circa un mese arrivò a sostituirlo un certo Father Moritz, giovane, rubizzo in volto, che prese a ripetermi lezioni di catechismo di scarso valore educativo. Un giorno, mentre eravamo seduti su di una panca del refettorio, allungò libidinosamente le mani sulle mie cosce fino a sfiorare il pene. Scattai in piedi, gli diedi un'occhiata fulminante e gli gridai: «Vade retro, Sodoma!» Al che egli, rosso in viso per la vergogna, scappò, rifugiandosi in sacrestia. Io, pur essendo consapevole della bontà degli insegnamenti di Padre Alexander, che mi aveva reso maturo nella mente, non avevo mai sentito la vocazione per la vita sacerdotale e il turpe episodio di Father Moritz mi diede il colpo di grazia. Decisi di fare armi e bagagli ed abbandonai il monastero per far ritorno a Castel Tirolo. Nonostante avessi riferito quanto successo a mio padre, egli andò su tutte le furie per avere deluso le sue speranze di avere un sacerdote in famiglia. Da quel momento mi relegò a fare da straniera nella scuderia del castello, dove erano alloggiati 12 cavalli. Ero amante della natura, amavo gli animali, particolarmente i cavalli, ma nel contempo non potevo non soffrire la frustrazione di svolgere un lavoro così umile e degradante. Ero consapevole di aver raggiunto una grande levatura morale e culturale grazie agli insegnamenti di Padre Alexander. Tuttavia, cercai di immergermi nell'amore verso la natura, tentando di cacciare lontano da me la depressione. Grazie. Poverino. Grazie. Grazie. Mi faccio quello, tanto nello stesso pubblico, mi si leggo quello che è stato letto l'ultima volta, poi nessuno se lo ricorderebbe. E mi ripetita io. Allora, la peste. Purtroppo il periodo di Fausto non era terminato. La piaga della peste, che si era già diffusa in tutta Europa, provocando la morte di milioni di persone, arrivò subdolamente nella valle dell'Adige. Si racconta che fosse stato un frate originario di Merano, già coperto dalle pustole della terribile malattia, a causare l'epidemia, dopo essere entrato in città per morire nella sua terra. Nel convento di Francescani, dove si era rifugiato, purtroppo i germi della terribile malattia si propagarono e parte dei confratelli si ammalarono. Molti si coprivano di orrendi bubboni che scoppiavano e creavano ferite purulente. Il comandante militare del castello ordinò che nessuno degli abitanti lasciasse il maniero e chiuse con tavolati l'accesso al castello. Avevo sempre in testa i santi insegnamenti del Vangelo. Gesù Cristo aveva sempre detto che occorreva amare il prossimo più di noi stessi e che bisognava aiutare e soccorrere gli ammalati, i poveri e gli infelici. Di notte, dopo aver raggirato il controllo delle guardie, scavalcai il muro d'ingresso e a piedi raggiunsi Merano, dove c'era un caos incredibile, muri crollati, cadaveri lungo le strade, esseri umani in agonia. Mi sembrò di vivere in un incubo. Mi recai all'ospedale nella piazza della città ed entrandovi vidi centinaia di persone su giacili di paglia che mettevano un flebile lamento, alcune persone caritatevoli coperte di maschere che coprivano completamente il viso. Spargevano sorsi di acqua sulla bocca degli appestati e ponevano pezzi di tela sulle loro ferite purulente. Anch'io feci la mia parte, accompagnando gli altri materiali con parole di conforto, esortando a fidare negli insegnamenti di Gesù Cristo. Vicino al Duomo sentii un rantolo alle mie spalle. Vidi il volto di una fanciulla con gli occhi spalancati e con la rosea boccuccia semiaperta, dal bel volto incorniciato da splendidi capelli biondi. L'innato senso di solidarietà umana ebbe sopravvento sulla paura del contagio. Mi avvicinai, le toccai dolcemente il viso ed ella mi rivolse un sorriso che mai potrò dimenticare. Scoprendole la veste stracciata e sporca sulla spalla destra, vide delle orribili pustole che le ricoprivano il petto e le gambe, ma le avevano preservato chissà perché il bellissimo viso d'angelo. Mi guardò coi suoi occhioni color pervinca, poi ebbe un sussulto e mi accorsi che non respirava più. Una vita di una fanciulla innocente era stata falciata dall'inesorabile lama della morte. Non potei trattenere la mia emozione e piansi calde lacrime senza alcun ritegno. Poi ebbi un ulteriore moto di ribellione e urlai: Dio, come puoi permettere tutto questo? Perché hai impedito a questa fanciulla di assaporare la bellezza della vita? Fui pentito di questa manifestazione di ribellione. Non potevo sapere, io, povero essere umano, quali fossero i disegni dell'essere superiore che ci governava. Chi lo sa, forse questa bellissima fanciulla in questo momento viveva in un mondo migliore del nostro. Aspettai la notte e, guidato dalla luce della luna, ripresi la via del castello. Mi arrampicai sulle mura e riuscii a superare la porta d'ingresso e mi lanciai nel cortile. Ero convinta che la mia fuga fosse passata inosservata, ma una persona ignota che evidentemente non mi amava denunciò la mia fuga, avendomi visto scavalcare il muro d'ingresso. Fui chiamato dal comandante Frauen Beck e dovetti confessare la verità. Egli mi fece rinchiudere in una prigione isolata, prendendo tutte le precauzioni perché non potessi trasmettere l'epidemia, nel caso fossi stato colpito dalla terribile malattia. Passai alcuni giorni terribili nel freddo della galera, impaurito dal pericolo di morire, ma convincendomi che avevo agito secondo giustizia. Dopo una settimana una pioggia torrenziale si scatenò nella valle dell'Adige, mentre già gli effetti della peste si stavano attenuando. La pioggia aveva rinfrescato l'aria ed aveva eliminato del tutto le conseguenze della terribile epidemia. Molti guarirono, le ferite curate adeguatamente si rimarginarono ed io fui liberato dopo essere stato giustamente punito per il rischio che avevo procurato agli abitanti del castello. Grazie. Se puoi chiudere o se c'è qualcuno che vuole. Ecco, naturalmente, come sempre in queste occasioni, se c'è qualcuno del pubblico che vuole porre qualche domanda, qualche quesito, un dubbio. Ma chi era l'amante della contessa? C'ha un nome? Dominic. Dominic. Sì, mancato prete. Il mancato prete. Il mancato prete è descritto tutto nei capitoli seguenti, l'incontro con la contessa e questo coup de foudre improvviso fra questi due giovani. Questa contessa non ha avuto figli? Sì, ha avuto purtroppo, dunque lei, a parte che pare abbia avuto diversi aborti, comunque un unico figlio è sopravvissuto, cioè è nato ed era Mainardo III, quindi portava il nome del nonno Mainardo, ecco Mainardo. Il Manello III, il quale a un certo punto, anche se montato la testa, si è messo contro la madre e sostanzialmente voleva accelerare i tempi di prendere in mano la contea del Tirolo, e poi pare che fossero cugini con gli Asburgo, quindi tramava un po'. Poi invece ritornò in seno alla madre. E però è morto, purtroppo è morto improvvisamente, giovanissimo, e dopo che già 2 anni prima era morto il padre. Quindi nel 1363 Margaret Mautasch è vedova senza figli, disperata, e cede alla corte che le fanno gli Asburgo per prendersi la contea, e cede la contea agli Asburgo, e poi lei va a Vienna in convento. Quindi sostanzialmente è descritto tutto, c'è molti libri, c'è stato anche a Castelroncolo, c'è stata la cessione, hanno fatto una manifestazione sul libro che ha fatto Lanzinger, la cessione coatta, che appunto parla del 1363, quando finisce la contea del Tirolo, cioè da allora fino al 1918 la terra passa agli Asburgo, la storia arriva fino ai tempi nostri qua. Quanti secoli è durata la contea? È durata sostanzialmente 2 secoli, perché l'autore, il grande autore della contea del Tirolo è stato Mainardo II. Mainardo II è stato un grandissimo personaggio, pensate che è stato scomunicato 8 volte. È stato scomunicato 8 volte, ma pagando le scomuniche tornavano indietro, bastava pagare. e i tempi non sono cambiati. Ecco, non è durata lunghissimo, sono stati 2 secoli, ma 2 secoli pieni, però pieni di storie, pieni di avvenimenti, e soprattutto questa famiglia che si è imposta, la famiglia dei Mainardi. Ecco. Comunque la contea era autonoma dall'impero. Per Bacco, certo, era autonoma, era uno Stato, era un vero e proprio Stato. E per questo naturalmente era così corteggiata la. Più che Margaret era corteggiata la contea, capito? Infatti gli Asburgo alla fine hanno vinto la partita con le altre 2 famiglie aristocratiche e se lo sono tenuti fino al 1918, quando c'è stata la guerra, la famosa guerra che ha dimezzato il Tirolo. Ecco. Va bene, se. Prego il Presidente se vuoi chiudere o se, c'è, se non so, c'è. Se c'è qualche altra domanda, qualche altro quesito, non solo storico. Lei ha avvocato parlato della sede di Castelpiolo, ma la sede non era in Sauflos o Crepan? Sopra? Sopra a Chiano. No. Allora, lì c'è stato un avvicendamento di famiglie che hanno dominato il Tirolo. I conti di Appiano hanno dominato il primo periodo negli anni dal 900 al 1100, hanno dominato la storia del Tirolo, poi sono stati sconfitti dai conti di Tirolo, proprio c'era stata la praticamente erano 3 le famiglie importanti, c'erano i conti di Appiano, i Greifenstein che era sede Terlano giù di lì, e poi c'erano i conti di Tirolo. I conti di Tirolo alla fine, parlo di Mainardo, sono riusciti a sconfiggere i conti di Appiano e prendersi il territorio. Ma il castello Ojepan, che è un altro castello bellissimo, che è forse il più antico dell'Alto Adige, che è stato comprato dal comune di Appiano adesso, no? Perché i proprietari l'hanno messo in vendita, era il dominio dei conti d'Appiano. Dei conti d'Appiano, cioè, tra l'altro è bellissimo, si deve andare a piedi l'ultimo tratto, però è un castello bellissimo, ancora sono le rovine del castello, però ci sono delle pitture meravigliose che sono veramente celebratissime nel mondo dell'arte medievale. Bene, ecco, io sono 2 o 3 volte sono stato invitato all'UPAD a parlare della storia dell'Alto Adige, e sono permesso anche di scrivere. Adesso si parla, una volta si partiva da Druso, adesso si parla da Ezzi, perché il più antico protagonista della storia dell'Alto Adige è Ezzi. Però poi si sa poco, anche del periodo romano si sa molto poco. E la storia medievale comincia a dare più immagini, più notizie, ecco, di come era la vita in quel periodo della nostra provincia. È stato il romanticismo, no? Rivalutare il Medioevo. Certo, no? Certo. Volevo una piccola parentesi: a Colorenza c'è un castello bellissimo, Castel Coira, che contiene la più bella, la più grande collezione di armature medievali originali in tutta Europa, il più bello e il più fornito. Una alta 2 metri, ecco, che a Colorenza, che pare che appartenesse al conte Ulrico di Mach. I Mazia, che erano dei conti che proprio della zona di Sluderno, ecco, è veramente una delle più belle, assieme alle armature che ci sono a Grazia, Grazia alla più grande galleria di armature d'Europa. Ma io credo che dopo Castelcoira sia molto espressiva di questa, di questo mondo delle armature. Bene, grazie a tutti, allora buonasera.